L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Questa è la Luna, il satellite naturale della Terra. Trasformata in un avamposto scientifico, era una colonia spaziale autosufficiente, in grado di permettere all'uomo di progredire nella continua ricerca di nuove forme di vita nell'universo. La razza umana stava così per entrare nel terzo millennio della sua storia. Finalmente diventeranno realtà i film come questo di fantascienza. Spazio 1999, destinazione base lunare Alfa. Se ci torniamo, torniamo per restarci. Federico, benvenuti agli ascoltatori. Certo, benvenuti a tutti. Ciao Chiara. Sì, è vero, hai ragione. Non sarà come le missioni Apollo. Si pensa di realizzare sulla Luna una base stabile con astronauti che ci vivono dentro per mesi. Un passaggio, dicono, che è obbligatorio prima della vera sfida, che è andare su Marte. Eh sì, e molti ricercatori, molti scienziati sono già al lavoro per sviluppare ovviamente quelli che saranno i moduli lunari e le tecnologie per realizzarli. Non potremo portarci dietro tutte le materie prime dalla Terra, perché ovviamente saranno troppo pesanti e troppo costose. Si dovranno usare le risorse trovate in loco, come ci spiegherà adesso Luca Valentini, ricercatore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Lui sta lavorando con l'Agenzia Spaziale Europea proprio su questo tema. Benvenuto. Salve, grazie per l'invito. Allora Valentini, per la materia prima di base, la terra, quella che noi scaviamo qua, che sulla Luna si chiama regolite, il componente principale del suolo lunare, è così la regolite. Vi servirete di questo ingrediente fondamentale? Esattamente, l'idea di base è proprio quella di rimpiazzare il comune cemento Portland con della regolite lunare, e si tratta appunto del classico suolo lunare. Pensate però di utilizzare questo cemento non come succede qua sulla Terra per mettere insieme i mattoni, perché di fatto dovrete creare anche i mattoni. In che modo? Beh sì, più che mattoni vorremmo mettere a punto un materiale analogo al calcestruzzo per il quale il cemento rappresenta appunto il legante. E data la evidente difficoltà di aprire sulla Luna dei veri e propri cantieri, la NASA penserebbe di utilizzare delle stampanti 3D. Utilizzo di stampanti 3D poi richiede anche delle determinate proprietà del materiale in termini di fluidità. Una piccola precisazione, ecco, le stampanti 3D sono quegli ugelli che strato su strato costruiscono delle strutture, appunto, quindi si pensa di costruire, non so, delle cupole, degli iglu. Com'è che le immaginate queste basi? Ma esattamente, adesso per quanto riguarda gli aspetti più architettonici, sì, ci sono varie immagini sui siti dell'ESA in cui vengono riprodotte queste cupole. Per stampare in 3D bisogna creare una pasta abbastanza fluida, immagino, per non intasare l'ugello d'uscita della stampante. Ecco, state studiando anche come impiegare quindi l'acqua e i fluidificanti per fare questa malta, chiamiamola così. Esattamente, beh, questa è una delle maggiori difficoltà anche per applicazioni comuni terrestri, quella di controllare la fluidità. Per quanto riguarda queste applicazioni lunari, si è pensato di proseguire appunto con questo approccio di utilizzare materiale reperibile sul posto, e in questo caso abbiamo sperimentato con l'urea. In questo caso è stato un'urea acquistata commercialmente. L'idea sarebbe quella di estrarre l'urea dalle urine degli astronauti. Quindi utilizzare come fluidificante l'urina o l'urea che poi viene estratta dall'urina degli astronauti, di fatto, quindi anche l'acqua, immaginiamo. Questo potrebbe essere un approccio, quello di utilizzare l'urina così com'è, urina che oltre all'urea che ha appunto queste proprietà fluidificanti, contiene altri componenti come l'acido citrico, che anche esso si è visto può conferire proprietà reologiche adatte a questo tipo di applicazioni. Senta, però, avete collaborato con altri centri di ricerca? Circola voce che vi siete avvalsi anche di strumentazioni biomedicali come la TAC. Allora, il Dipartimento di Geoscienze è entrato in gioco proprio per sfruttare le competenze sull'analisi microstrutturale di questi materiali cementizi, utilizzando tecniche di microtomografia a raggi X, che è una tecnica sostanzialmente alle TAC ospedaliere, con una risoluzione più spinta dell'ordine dei micrometri rispetto a quello che siamo abituati in ospedale, e questo permette un approccio non distruttivo allo studio della struttura interna tridimensionale del materiale. Va bene, allora buonissimo lavoro Valentini, ci sarà da fare. Grazie, grazie. Buona ricerca. Voci di corridoio dicono 2024, Federico. 2024 per Marte oppure per la Luna? 2024 Luna e poi si vocifera 2030 Marte, però sai, sono informazioni da prendere con le pinze. Vabbè, qui a Darwin abbiamo parlato di tutto, anche della pipì sulla Luna. Sì, sì, sì, e poi vi teniamo informati, non vi preoccupate. Ciao a tutti, ciao Federico, ciao ascoltatori. Ciao Chiara, ciao a tutti. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.